Capitolo 12. Il discorso del vecchio gentiluomo della storia. Mentre il nababbo e il giovane marinaio si intrattenevano nella sala da pranzo, vivacemente illuminata, Virginie, nella camera da letto, le cui candele erano state quella sera dolcemente schermate di rosa, si preparava per la parte della protagonista che doveva sostenere nella storia del signor Clay. Aveva mandato via la camerierina cinese che l'aveva aiutata a preparare la stanza e adornarla con alcuni oggetti che l'avrebbero fatta sembrare la camera da letto di una dama elegante. Per due o tre volte aveva improvvisamente interrotto il suo lavoro e dichiarato alla ragazza che tutte e due avrebbero immediatamente lasciato la casa. Ora che era sola, non pensava più ad andarsene. La stanza in cui si trovava era stata la camera da letto dei suoi genitori e la domenica mattina i bambini vi potevano venire a giocare nel gran letto. Suo padre e sua madre, che per tanto tempo erano parsi lontani, quella sera erano con lei ed era entrata nella loro vecchia casa col loro consenso. Per loro, come per lei, quella notte avrebbe provocato il giudizio finale del loro vecchio nemico mortale. La vergogna e l'umiliazione della loro figliola avrebbero procurato la prova definitiva contro di lui. La figliola, fedele al giuramento di tanto tempo fa, non avrebbe veduto il viso di lui di fronte alla sentenza, ma suo padre e sua madre defunti erano lì per osservarlo. Gli ornamenti con cui Virginia aveva abbellito la sua camera da letto di una notte, le figurine, i ventagli cinesi e i mazzolini Macquart, erano identici a quelli che ricordava dall'infanzia e che erano stati così tristemente bruciati o distrutti da suo padre prima che il signor Clay mettesse piede in casa. Alcuni ninnoli venivano dalla casa di lei. In questo modo Virginia aveva congiunto la cupa esistenza degli ultimi 10 anni al gaio e immacolato passato di tanto tempo addietro e l'aveva fatta riconoscere da Monsieur e Madame Dupont. Si dispose a vestirsi e a ornare la propria persona. Affrontò quell'impresa solennemente e cupamente, come Giuditta nella tenda dei Babilonesi si ornava il volto e il corpo per l'incontro con Oloferne. Ma fu subito e inevitabilmente assorbita dall'operazione stessa, come molto probabilmente era capitato alla stessa Giuditta. Virginie era onesta in fatto di danaro e con le 300 guinee del signor Clay si era coscienziosamente e generosamente provveduta di tutto quanto era inerente alla sua parte. Aveva un debole per i merletti e in quel momento galleggiava su una nuvola di Valenciennes con una collana di corallo intorno al collo, le perle agli orecchi e un paio di pantofoline di raso rosa ai piedi. Si incipriò e imbellettò il viso, si bistrò le ciglia e si dipinse le labbra carnose. Poi lasciò che i capelli le ricadessero sulle spalle lisce, infolti, serici boccoli, e si profumò il collo, le braccia e il petto. Quando tutto fu fatto, andò gravemente a guardarsi prima nell'uno e poi nell'altro dei lunghi specchi che erano nella stanza. Quegli specchi avevano riflesso la sua figura di bambina e le avevano detto allora che era bella e graziosa. Guardandocisi ora, ricordava che a 12 anni ella li aveva supplicati di mostrarle come sarebbe stata negli anni futuri, da signora. Quella bambina, sentiva, non avrebbe mai potuto sperare che le fosse mostrata, in una luce più dolce o più rosea, una dama più bella, più elegante e ammaliante. L'amore di Virginie per l'arte drammatica, ereditato da suo padre e incoraggiato da lui, veniva in suo aiuto nell'ora del bisogno. Se lei non era ciò che sembrava, neppure le trattative d'affari di suo padre erano sempre state proprio quel che sembravano. Durante queste riflessioni, ella era sgusciata dalle sue pantofoline di seta e aveva allungato il suo bel corpo, esile e forte, tra le lisce lenzuola ricche di merletti. E sparso sulle federe dei guanciali le sue nere trecce di seta. Era stata presa dal pensiero del nemico ed era stata presa dalla visione di se stessa. Soltanto quando udì dei passi fuori nel corridoio, pensò alla terza parte della storia, al suo ignoto ospite di quella notte. Poi, per un attimo, una gelida e rapida ombra di disprezzo per il pupazzo noleggiato e corrotto dal signor Clay le attraversò la mente. Quando vide girare la maniglia della porta, abbassò gli occhi e fino a quando la porta venne nuovamente aperta e richiusa, ella tenne lo sguardo fisso sul lenzuolo, ma In quel ritrarsi verrà tanta energia e tanto vigore quanto in uno sguardo diretto di mortale, inflessibile inimicizia. Il signor Clay, avvolto in una lunga vestaglia di pesante seta cinese, entrò nella stanza appoggiandosi al bastone. A due rispettosi passi di distanza da lui, un'ombra grande e confusa varcò lentamente la soglia. Il solo bicchiere di vino bevuto con l'ospite aveva agito sull'invalido di tante notti insonni. Anche lui, alcuni minuti prima, s'era un poco impaurito, e sebbene nel corso della vita avesse impaurito molta gente, egli aveva assai poca esperienza del timore che ora avrebbe forse potuto agitargli il sangue in un modo nuovo. Ma il vecchio era ebbro d'un liquore anche più forte, perché stanotte si muoveva in un mondo creato dalla sua volontà e al suo comando. Il trionfo l'aveva invecchiato in poche ore. I suoi capelli sembravano essere diventati più bianchi, ma nello stesso tempo esso l'aveva stranamente ringiovanito. In quell'ora era conquistatore e soggiogatore, era davvero riuscito, assorbendole nel proprio essere, ad annullare le forze che inaspettatamente lo avevano sfidato. Egli stava realizzando una fantasia e trasformando una favola in un fatto. Aveva la vaga sensazione che fra poco avrebbe trionfato sulla persona che aveva tentato di sconvolgere l'idea che gli si faceva del mondo, il profeta Isaia. Sorrise lievemente, era un poco incerto sulle gambe, per la prima volta nella vita era impressionato dalla bellezza di una donna. Guardò, quasi con felicità, la ragazza nel letto, venuta alla vita per ordine suo, e per un attimo la vaga immagine di una bambina che tanto tempo fa gli era stata mostrata da un padre orgoglioso gli comparve davanti e sparì. Ammiccò, in segno di approvazione. I suoi pupazzi si conducevano bene, la protagonista della sua storia era rosa e bianca, e i suoi occhi abbassati testimoniavano una verecondia in allarme. La storia prendeva l'abbrivio. Era questo il momento, il signor Clay lo sapeva, del discorso del vecchio signore della storia. Lo ricordava parola per parola da quella notte di 50 anni prima, ma la consapevolezza del proprio potere stava in un certo senso montando la testa al nababbo di Canton. Il profeta Isaia è astuto e dietro un pio atteggiamento ha conoscenza di molti modi e misure. Il signor Clay era stato bambino soltanto per pochissimo tempo, fino a quando aveva imparato a parlare e a capire ciò che dicevano gli altri. Ora, mentre stava per entrare nel paradiso della propria onnipotenza, il profeta gli posava una mano sul capo e lo trasformava in un bambino. In altre parole, il vecchio uomo di sasso stava silenziosamente entrando nella seconda infanzia. Cominciò a giocare con la sua storia. Non poteva abbandonare il tema della tavola da pranzo. Tu, cominciò, indicando col dito teso la ragazza che era nel letto. E tu, tese il dito verso il ragazzo, ma non lo guardò. Siete giovani, siete in buona salute, le membra non vi dolgono, di notte dormite. E siccome potete camminare e muovervi senza dolore, credete di camminare e di muovervi secondo la vostra volontà. Credete di camminare, ma non è così. Voi camminate e vi muovete al mio comando. Siete in realtà due giovani, forti e robusti burattini nella mia vecchia mano. Indugiò. E il suo duro sorrisetto era ancora vivo. Così, proseguì, così come vi ho detto, tutti sono burattini in una mano più forte della loro. Così come vi ho detto, sono i poveri burattini nelle mani dei ricchi, gli stolti di questa terra in mano degli astuti, ballano e cadono a seconda di come quelle mani tirano i fili. Quando me ne sarò andato, concluse. E voi due sarete lasciati a voi stessi e crederete di seguire solo l'impulso del vostro giovane sangue. Seguiterete a non far nulla, assolutamente nulla, che non sia ciò che io ho stabilito facciate. Vi conformerete alla trama della mia storia, perché stanotte questa stanza, questo letto, voi stessi con questo stesso sangue caldo che è in voi, tutto ciò altro non è che una storia trasformata in realtà per mio volere. Gli riusciva difficile staccarsi da quella stanza. Rimase in piedi, in fondo al letto, per un altro minuto, aggrappato al bastone. Poi, con bella dignità, voltò le spalle ai piccoli attori che erano sulla scena della sua onnipotenza. Quando aprì la porta, Virginia alzò gli occhi. Guardò diritta alla figura dell'assassino di suo padre, ed era una figura che si ritirava e spariva. La lunga vestaglia cinese del signor Clay strascicava in terra, e quando egli richiuse la porta, ci rimase impigliata ed egli dovette aprire e chiudere la porta una seconda volta. Capitolo 13. L'incontro. La stanza rimase vuota di suoni e di movimenti fino a che, nello stesso istante, il ragazzo fece due lunghi passi avanti e Virginie nel letto voltò il capo e lo guardò. Allora ella fu così mortalmente spaventata che dimenticò la sua alta missione e per un momento s'augurò d'essere nuovamente a casa sua e magari sotto il patrocinio, per quel che valeva, di Charlie Simpson. Infatti, la figura ritta in fondo al letto non era un qualunque marinaio trovato in una strana di Canton. Era un immenso bestione selvaggio condotto lì a stritolarla sotto di sé. Il ragazzo la fissò, immobile, salvo per l'ampio petto che gli saliva e scendeva seguendo il profondo e regolare respiro. Alla fine disse: «Penso che tu sia la più bella ragazza del mondo». Allora Virginie capì di avere a che fare con un bambino. Egli le chiese: «Quanti anni hai?» Ella non trovava parole da dire. Era mai possibile che ora la sua grande e cupa tragedia si trasformasse in una commedia? Il ragazzo aspettò una risposta, poi le chiese di nuovo: «Hai 17 anni?» «Sì», disse Virginie, e udendo la propria voce pronunciare quella parola, il suo viso, voltato verso di lui, si raddolcì un poco. «Allora abbiamo la stessa età, tu ed io», disse il ragazzo. Fece un altro passo, lentamente, e si sedette sul letto. «Come ti chiami?» le chiese. «Virginie», gli rispose. Egli ripeté quel nome due volte e rimase per qualche tempo a guardarla. Poi si distese piano piano accanto a lei, sopra la coperta. Nonostante la sua statura, egli si muoveva leggermente e con agio. Ella udì il fiato di lui che si faceva più rapido, poi si interrompeva e riprendeva con un debole lamento, come se qualcosa gli cedesse dentro. Rimasero distesi così per un po' di tempo. «Ho una cosa da dirti», sbottò improvvisamente sottovoce. «Fino a stasera non ho mai dormito con una ragazza. Ci ho pensato spesso, tante volte ho avuto intenzione di farlo, ma non l'ho fatto mai». Egli rimase nuovamente in silenzio, perché aspettava di sapere quello che lei avrebbe risposto. Siccome non disse nulla, proseguì. «Non è stata tutta colpa mia», disse. «Sono stato via per molto tempo, in un posto tanto, tanto lontano dove non c'erano ragazze». Di nuovo si fermò e di nuovo riprese a parlare. «Non l'ho mai detto agli altri della barca», disse, «né agli amici con cui sono sbarcato stasera, ma ho pensato che a te era meglio che lo dicessi». Contro la propria volontà, Virginie voltò il viso verso di lui. Il viso di lui, accosto al suo, era di fuoco. «Quando stavo nel posto che ti ho detto, lontano, lontano da qui», proseguì, «qualche volta immaginavo di avere con me una ragazza che era mia. Le portavo uova di uccelli e pesce e certi grandi frutti dolci che crescevano laggiù, ma che non so come si chiamano, e lei era buona con me. Dormivamo insieme in una grotta che avevo trovato dopo 3 mesi che stavo sull'isola. Quando c'era la luna piena, la grotta ne era tutta illuminata, ma non sapevo trovarle un nome. Non ricordavo un solo nome di ragazza». «Virginie», soggiunse adagio adagio, «Virginie». E ancora: «Virginie». Tutto a un tratto sollevò la coperta e il lenzuolo e vi scivolò dentro. Sebbene stesse ancora un poco discosto da lei, ella sentiva la presenza di quel corpo grande, agile, giovanissimo. Dopo un poco egli allungò una mano e la toccò. La sua camicia da notte di merletto era scivolata e le scopriva una gamba, così che ora il ragazzo, posandovi lentamente una mano sopra, trovò il suo nudo ginocchio tornito. Egli trasalì leggermente, Lasciò che le dita ci scorressero sopra, piano piano. Poi ritirò la mano e la passò sul proprio ginocchio, magro e ruvido. Un attimo dopo, Virginie strillò in preda al terrore. «Dio!» gridò. «Per l'amor di Dio, alzati! Dobbiamo alzarci! C'è il terremoto! Non senti il terremoto?» «No!» ansimò sottovoce il ragazzo contro il viso di lei. «No! Non è un terremoto! Sono io!» Capitolo 14. La separazione. Quando alla fine si addormentò, egli la teneva stretta a lui, come avvitata, e aveva il viso sepolto contro la sua spalla e respirava a fondo, in pace. Virginie, che fino allora aveva pensato a tante cose, ora stava sveglia, ma non riusciva a pensare a nulla al mondo. Mai in vita sua aveva incontrato tanta forza. Ora sarebbe stato vano e disperato tentare di agire con le forze proprie. Sentiva la sua stretta potente attorno a lei, come una realtà fino allora ignorata, che faceva apparire tutto futile e artificioso. Nel pieno della notte ricordò improvvisamente cose che sua madre le aveva detto sulla propria gente, gli uomini di mare della Bretagna, vecchie canzoni francesi sui pericoli del marinaio e sul suo ritorno a casa. Le tornarono alla mente come fossero cose sue. Alla fine, da molto lontano, giunse la ninna nanna della moglie del marinaio. Quando nel corso della notte si destò, il ragazzo si comportò con la ragazza che era nel suo letto come un orso con un favo di miele, ringhiandole addosso in un'estasi sfrenata e ingorda. Per una volta o due si parlarono. A bordo, disse lui, qualche volta inventava una canzone. «Di che parlavano le tue canzoni?» chiese lei. «Del mare», egli rispose, «e della vita dei marinai, e della loro morte». «Dimmene qualcuna», ella disse. Dopo un momento egli si mise a recitare lentamente. Quella notte ero di guardia, gelida era l'aria, tre cigni volarono sulla luna, solcandole il rotondo viso dorato. «Dorato», ripeté un po' a disagio. E dopo una pausa, una moneta d'oro da 5 guinee come la luna, ma non le assomiglia affatto. «Hai fatto altre canzoni?» chiese Virginie, che non capiva che cosa volesse dire, ma comunque non voleva vederlo turbato. «Oh sì, ho fatto altre canzoni», egli disse, «sulla mia barca». «Allora dimmene qualcuna», ella disse di nuovo. E di nuovo lui recitò adagio. «Quando il cielo è bruno, il mare sbadiglia, laggiù, fondo tre braccia, e la barca cala giù come una balena. Povero Velling non si fa mai pallido». «Ti chiami Paolo, allora?» ella chiese. «Sì, Povl», egli rispose. «Non è un brutto nome. Mio padre si chiamava Povl, e anche suo padre. È il nome di buoni marinai, fedeli alla loro nave. Mio padre è morto annegato 6 mesi prima che nascessi io, è laggiù, in fondo al mare». «Ma tu, Paolo, non t'annegherai?» ella disse. «No», egli disse, «forse no. Ma tante volte mi sono domandato che cosa pensava mio padre quando il mare alla fine se l'è preso per sempre». «Ti piace pensare a queste cose?» gli chiese un po' inquieta. «Lui ci pensò su. Sì», disse. «È bello pensare alle tempeste e al mare profondo. Non è brutto pensare alla morte». Un momento dopo esclamò in un grido basso e improvviso: «Dovrò tornare alla mia nave appena fa giorno, parte al mattino». A quelle parole una pena lunga e triste serpeggiò per tutto il corpo di Virginie. Subito dopo si addormentarono tutti e due, l'uno nelle braccia dell'altra. Virginie si destò, che il mattino già si mostrava a strisce grigie tra le tende delle finestre. Il ragazzo s'era staccato da lei, ma era immobile, in un sonno profondo, e le teneva una mano. Appena sveglia, si sentì afferrare, quasi strangolare da un solo pensiero. Mai prima di allora un pensiero l'aveva colmata così interamente, escludendo qualsiasi altra cosa. «Quando lo vedrà alla luce del giorno», rifletté, «il mio viso sarà vecchio, incipriato, imbellettato, il viso di una donna anziana e malvagia». Osservò la luce che si faceva più forte. Aveva ancora 10 minuti, aveva ancora 5 minuti, pensava, e il cuore le pesava nel petto. Venne il momento ed ella lo chiamò 2 volte per nome. Quando si svegliò, egli disse che doveva alzarsi per essere sulla sua nave prima che salpasse. Lui non le rispose, ma s'aggrappò alla sua mano e subito se la premette contro il viso, gemendo. Udì un uccello cantare in giardino e disse: Ascolta, Paolo, c'è un uccellino che canta. Le candele si sono consumate, la notte è finita. Improvvisamente, senza una parola di preavviso, come un animale che si lanci sulla preda, egli si buttò fuori del letto, l'afferrò, l'alzò con lui. Vieni, gridò, vieni via, vieni con me, via da qui. La sua voce era come una canzone, come un uragano, la sollevava più su delle proprie braccia. Ti porto con me, gridò di nuovo, alla mia nave, ti nascondo laggiù nella stiva, ti porto a casa con me. Lei gli poggiò le mani sul petto per staccarsi da lui e sentiva che andava su e giù come un paio di mantici, ma riuscì soltanto a farlo ondeggiare, con lei stretta nel suo abbraccio come un albero sotto vento. Egli la strinse più forte, l'alzò come per buttarsela su una spalla. Non ti lascerò, gridò in un canto, non permetterò mai che qualcuno al mondo ci divida. E che mai? Ora sei mia. Mai, mai, mai. In quel momento, Virginie scorse le loro 2 figure annebbiate in uno degli specchi. Non avrebbe potuto aspettarsi una scena più drammatica. Il ragazzo appariva di una grandezza sovrumana, addirittura formidabile, come un orso infuriato, ritto sulle gambe posteriori, che dondoli il treno anteriore. E lei, a sua volta, coi lunghi capelli sciolti, era la preda, inerme e indifesa, che gli stringeva nel braccio sinistro. Torcendosi, riuscì a poggiare un piede in terra. Il ragazzo la sentì tremare, la posò, pur tenendola stretta a sé. Di che hai paura? Le chiese, costringendola ad alzare il viso e a guardare il suo. Non penserai che permetta a qualcuno di portarti via da me? Verrai a casa con me. Non avrai paura della tempesta o della tormenta o dei cavalloni quando sono con te. In Danimarca non avrai mai paura. Lassù dormiremo insieme tutte le notti, come stanotte, come stanotte. Il terrore mortale di Virginie non aveva nulla a che fare con la tempesta, con la tormenta o coi cavalloni. In quel momento non temeva neppure la morte. Temeva solo che egli vedesse il suo viso alla luce del giorno. Dapprima non osava parlare perché non si sentiva sicura di sé. E avrebbe potuto dire qualsiasi cosa. Ma quando si sentì ritta sui 2 piedi, riuscì per un minuto a concentrare tutto il suo essere alla ricerca di una via di scampo. Non puoi far questo, ella disse, ti ha pagato. Come? Egli gridò sbalordito. Quel vecchio ti ha pagato, ripeté. Ti ha pagato perché te ne andassi all'alba, hai preso il suo danaro. Quando afferrò il significato di quelle parole, egli impallidì e lasciò cadere la mano di lei così all'improvviso da farla vacillare. Sì, disse lentamente, mi ha pagato e io ho preso il suo denaro. Ma allora, gridò, io non sapevo. Egli fissò davanti a sé nel vuoto, più su della testa di lei. Gliel'ho promesso, disse, aveva la voce greve. Poi lasciò cadere il capo sulla spalla di lei e affondò il viso nei suoi capelli e nella sua carne. Oh, oh, oh, gemeva. La prese tra le braccia, la riportò a letto e si sedette accanto a lei con gli occhi chiusi. Ogni tanto la sollevava e premeva contro il suo corpo il corpo di lei, poi la riposava. Virginia era più calma quando egli teneva gli occhi chiusi. Ripensò alla loro breve conoscenza per trovare una parola da dirgli. «Avrai la tua barca», disse infine. Dopo un lungo silenzio le disse «Sì, avrò la barca». E poi ancora dopo un poco «Come hai detto? Che avrò la barca?» Di nuovo la sollevò e la tenne a lungo tra le braccia. Ma tu, disse. Ma tu, ripeté lentamente dopo un poco, che sarà di te, bambina mia? Virginie non disse una parola. Allora devo andare, disse. Devo tornare alla mia nave. Stette in ascolto, poi soggiunse. C'è un uccellino che canta. Le candele si sono consumate, la notte è finita, devo andare. Ma andò via soltanto un po' più tardi. Addio, Virginie, disse. È il tuo nome, Virginie. Darò il tuo nome alla barca, le darò tutti e due i nostri nomi. Povle Virginie. Navigherà con tutti e due i nostri nomi sopra. Solcherà lo Storström e la baia di Köge. Ti ricorderai di me? Chiese Virginie. Sì, disse il marinaio, sempre, per tutta la vita. Si alzò. Penserò a te tutta la vita, gli disse. Come potrei non pensare a te sulla mia barca? Penserò a te quando isserò le vele e calerò l'ancora e quando la leverò. Penserò a te la mattina quando udrò cantare gli uccelli, al tuo corpo, al tuo profumo. Non penserò mai a un'altra ragazza, a nessun'altra ragazza, perché tu sei la ragazza più bella del mondo. Ella lo seguì fino alla porta e gli mise le braccia al collo. Qui, lontano dalla finestra, la stanza era al buio. Qui udì improvvisamente se stessa che piangeva. Ma ho ancora un minuto, pensò, mentre lo stringeva tra le braccia e si baciavano. Guardami, lo supplicò. Guardami, Paolo. Serio, egli la guardò in viso. Ricordati il mio viso, ella disse. Guardamelo bene il viso, ricordatelo. Ricordati che ho 17 anni, ricordati che non ho mai amato nessuno prima di incontrare te. Ricorderò tutto questo, egli disse. Non dimenticherò mai il tuo viso. Aggrappata a lui, teneva alzato il volto bagnato e sentiva che egli si stava liberando dalla sua stretta. Ora devi andare. Capitolo 15. La conchiglia. Alla luce di quella stessa alba, Elishama saliva al viottolo ghiaioso del signor Clay ed entrava in casa, per poter essere, calmo come sempre, la conclusione o l'epilogo della storia. Nella lunga sala da pranzo la tavola era ancora apparecchiata e v'era ancora un po' di vino nei bicchieri. Le candele si erano consumate, soltanto un'ultima fiammella tremolava sul suo candeliere. Anche il signor Clay era ancora lì, issato sui cuscini della sua ampia poltrona, coi piedi su uno sgabello. Aveva vegliato, in attesa del mattino, per bere al sorgere del sole la coppa del trionfo. Ma la coppa del trionfo era stata troppo forte per lui. Elishama rimase a lungo, immobile come lo stesso vecchio, a guardarlo. Finora non aveva mai veduto dormire suo padrone, e dai suoi gemiti e dalle sue lamentele aveva dedotto che in quell'atto non lo avrebbe veduto mai. Eppure, pensò, il signor Clay aveva avuto ragione. Aveva imbroccato il solo rimedio efficace contro le sue sofferenze. La realizzazione di una storia era la sola cosa che potesse dar riposo a un uomo. Gli occhi del vecchio erano lievemente aperti, pallidi come ciottoli, ma le labbra sottili erano chiuse in un sorriso contorto. Aveva il viso grigio come le mani ossute che teneva sul grembo. La vestaglia gli pendeva in pieghe così fonde che sembrava quasi impossibile ci fosse un corpo per unire quel viso e quella testa con quelle mani. Tutta la figura rigida e orgogliosa, invidiata e temuta da migliaia di persone, quella mattina sembrava una marionetta, quando la mano che ne ha tirato i fili li ha improvvisamente mollati. Il suo servo e confidente si sedette su una seggiola ad ascoltare l'abituale mugolio e brontolio che usciva dal petto del vecchio, ma la stanza era perfettamente silenziosa. Elishama ripeté a se stesso le parole del suo profeta e i dolori e i sospiri fuggiranno via. Per molto tempo il commesso del signor Clay rimase seduto con lui a meditare sugli avvenimenti di quella notte e sull'umana condizione in genere. Che cosa era accaduto, si chiedeva, alle 3 persone che avevano avuto ognuna il proprio ruolo nella storia del signor Clay? Avrebbero potuto mai farne a meno? Era triste, rifletteva, come tante volte aveva già fatto. Era molto triste per chi desiderava le cose con tanta forza da non poterne fare a meno. Se non riusciva a ottenerle era triste, e quando le otteneva era anche davvero molto triste. Dopo un poco si domandò se non avrebbe dovuto toccare il corpo immobile e insaccato che gli stava davanti, per dimostrare con un gesto la sua intenzione di destare il signor Clay per la trionfale conclusione della sua storia. Ma nuovamente si risolse ad aspettare un poco e ad osservare per primo quella conclusione. Uscì in silenzio dalla stanza silenziosa. Andò alla porta della stanza da letto e mentre aspettava fuori udì delle voci. Due persone parlavano nello stesso momento. Che cosa era accaduto a quei due nella nottata? E che cosa stava loro accadendo? Avrebbero mai potuto farne a meno? Qualcuno piangeva dentro quella stanza. La voce giungeva agli orecchi dell'uomo, spezzata, soffocata dalle lacrime. Elishama citò nuovamente a se stesso le parole di Isaia. Sgorga l'acqua nel deserto, e i rivi correranno per la steppa, e il sabbione si muterà in palude. Un poco più tardi la porta si aprì, e sulla soglia vide due figure che si abbracciavano e si aggrappavano l'una all'altra. Poi si separarono, una indietreggiando e sparendo, e l'altra avanzando e chiudendosi la porta dietro. Il marinaio della sera avanti indugiò qualche secondo fuori dalla porta e si guardò attorno, poi si mosse. Elishama fece un passo avanti. Era fedele al padrone e sentiva di dover ricevere la conferma della vittoria conseguita dal signor Clay, dalle stesse labbra del ragazzo. Il marinaio lo guardò gravemente e disse: «Me ne vado, torno alla mia nave, di' al vecchio che sono andato via». Allora Elishama s'accorse che la sera prima si era sbagliato. Il ragazzo non era giovane quanto lo aveva creduto. Ma non aveva importanza, doveva passare ancora molto tempo prima che fosse vecchio quanto il signor Clay, ora in pace e riposo nella sua poltrona. Ancora per molto tempo sarebbe stato in pericolo, alla mercé degli elementi e delle proprie voglie. Il commesso si incaricò di definire e liquidare le preoccupazioni del padrone. «Adesso puoi raccontare la storia», disse il ragazzo. «Quale storia?» chiese il ragazzo. «Tutta la storia», rispose Lisciama. «Quando dirai quel che ti è accaduto, quel che hai veduto e fatto, da ieri sera a ora, dirai la storia fino in fondo. Sei l'unico marinaio al mondo che possa dirla in verità, dal principio alla fine, con tutto ciò che contiene, come è realmente accaduta a te, dal principio alla fine». Il ragazzo guardò a lungo Lisciama. «Che cosa mi è accaduto?» disse alla fine. Che cosa hai veduto e fatto da ieri sera a ora? E di nuovo, dopo un poco, perché dici che è una storia? Perché, disse Elishama, tu stesso l'hai udita raccontare come una storia. La storia di un marinaio che sbarca dalla sua nave in una grande città e mentre cammina da solo in una strada vicino al porto, una carrozza si ferma accanto a lui e un vecchio gentiluomo ne scende e gli dice: «Sei un bel marinaio, vuoi guadagnare 5 guinee stasera?» Il ragazzo non si mosse, ma aveva una strana capacità di raccogliere all'improvviso e impercettibilmente tutta la sua gran forza e di rivolgerla verso la persona con cui stava parlando, come una minaccia, come un peso formidabile che avrebbe potuto mettere l'altro addirittura in pericolo di vita. Così aveva imbarazzato il signor Clay al loro primo incontro sulla strada e lo aveva poi decisamente impaurito più tardi nella serata, in sala da pranzo. Elishama, che non conosceva la paura, fu per un attimo commosso e turbato. Addirittura indietreggiò un poco davanti a quella creatura gigantesca. Tuttavia, non spaventato e con la stessa strana forma di attrazione e compassione che per tutta la vita aveva provato verso donne e uccelli. Ma la gigantesca creatura che gli stava davanti dimostrò di essere un animale pacifico. Aspettò un momento, poi dichiarò con grande calma: «Ma questa storia non è affatto come quella che è accaduta a me». Di nuovo aspettò un poco. «Raccontarla», disse a bassa voce. «Ma chi la racconterei? Chi la crederebbe se la raccontassi?» Mise tutta la forza e il peso che aveva raccolto e concentrato in un'ultima frase. Non la racconterei, disse, neppure per 100 monete da 5 ghinee. Elisham aprì la porta di casa all'ospite della notte. Fuori gli alberi e i fiori del giardino del signor Clay erano fradici di rugiada. Alla luce del mattino sembravano nuovi e freschi, come se fossero stati creati proprio in quell'ora. Il cielo era rosso come una rosa e non aveva una nuvola. Uno dei pavoni del signor Clay strideva sul prato, tirandosi dietro la coda e lasciando una striscia scura sull'erba color argento. Da lontano giungevano i lievi rumori della città al risveglio. Gli occhi del marinaio caddero sul fagotto che la sera prima aveva lasciato su una tavola laccata della veranda. Lo sollevò per portarselo via, poi ci ripensò, lo posò e ne sciolse lo spago. «Ti ricorderai di fare una cosa per me?» chiese ad Elisham. «Sì, me lo ricorderò», rispose Elisham. «Molto tempo fa», disse il ragazzo, «stavo su un'isola e c'erano molte migliaia di conchiglie lungo la riva. Alcune di esse erano bellissime. Forse erano rare, forse si potevano trovare soltanto su quell'isola. Ne raccoglievo qualcuna tutti i giorni al mattino. Me ne sono portate via alcune, le più belle. Volevo portarmele a casa in Danimarca. Sono l'unica cosa che abbia da portare a casa». E sciorinò la collezione di conchiglie sulla tavola. Le osservò tutte, pensieroso, e alla fine ne raccolse una rosa, grande e lucente. La porse a Elisham. «Non gliele darò tutte», disse. «Ha tante cose belle. Non le importerebbe di avere tante conchiglie per casa, ma questa è rara, credo. Credo che forse nel mondo non ce n'è un'altra uguale a questa». Passò lentamente le dita sulla conchiglia. «È liscia e morbida come un ginocchio», disse. «E quando la tieni all'orecchio ci senti un suono, una canzone. Vuoi dargliela per me? E vuoi dirle di tenerla all'orecchio?» Egli l'accostò al proprio orecchio e subito il suo viso assunse un aspetto attento, calmo. Elisham pensò che dopo tutto la sera prima non si era ingannato e che il ragazzo era davvero molto giovane. «Sì», disse, «mi ricorderò di dargliela». «E ti ricorderai di dirle che la tenga all'orecchio?» chiese il ragazzo. «Sì», disse Elisham. «Grazie e addio», disse il marinaio e tese ad Elisham la sua gran mano. Scese per i gradini della veranda e giù per il viale col fagotto in mano e sparì. Elisham si fermò per seguirlo con lo sguardo. Quando quella gran figura giovane non fu più visibile, si accostò la conchiglia all'orecchio. C'era in essa un ronzio profondo e grave, come un lontano ruggito di grandi marosi. Il viso di Elisham assunse la stessa identica espressione che aveva assunto il viso del marinaio qualche istante prima. Fu colpito in modo dolce e profondo, come dal suono di una nuova voce entrata in quella casa e in quella storia. «L'ho già udita», pensò, «tanto tempo fa, tanto, tanto tempo fa. Ma dove?» E lasciò cadere la mano.